11. La prova. La professoressa arriva con la preside e con la signora Mariella. Allora, ragazze, che cosa succede? Dice la professoressa. Tozzi e De Belli hanno comprato una PlayStation con delle monete e con qualche banconota. Sono sicuramente i soldi del giornalino. Non possiamo essere sicuri, dice la preside. Io ho una prova, dice Alexandra. Quale prova? Domanda Giovanna. Quale prova? Domandano la preside, la professoressa e la signora Mariella. Io posso riconoscere una banconota, dice Alexandra. Ho comprato una copia del giornalino con una banconota da 5 euro. Sulla banconota c'è un cuoricino rosso con la scritta A&A. La cassiera guarda le banconote nella cassa. C'è una banconota con un cuoricino rosso con la scritta A&A. Brava, Alex! Urla Giovanna. Chiamo subito i genitori di Tozzi e De Belli, dice la preside.